A parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato. Ma ce vado io, ma ce vado tu. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è no. Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white, and blue. Direttamente dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Modena. I miei compagni stanno preparando l'esame di meccanica quantistica e io ho le cuffie con il podcast della Zanzara. Siamo al top. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Mamma mia, che giornata, ragazzi! Che giornata! Sono qui, caro David, eccoci con una qua. Bottiglia di champagne. Eccola qui, aspetta. Cosa? Aspetta, come perché cosa? L'Olimpiadi delle cazzate che abbiamo sentito. Il no alle Olimpiadi! Aspetta, che stappo. Bottiglia di champagne, ma qua sotto. Sappi? Sì, c'ho una bottiglia di champagne. Pensa una grande giornata. Occasione per l'Italia, benissimo. Aspetta, di fermo lì. Ecco qua, vi faccio sentire. Bottiglia di champagne. Aspetta. Eccoci, oddio. Champagne sgasato, Aspetta, è uno champagne bagnato sgasato. Tutto, ma che bagnato? Ha fatto neanche il botto, no? Sì, fatto un botto pazzesco. Solito champagne low cost. Cazzo, che ho bagnato compri tutto, tu. Porca puttana. Evviva! No, le Olimpiadi! Ho bagnato tutto. La Raggi e il no, le Olimpiadi, vai. Quasi il 70% dei romani ha detto no. Quasi il 70% dei romani ha detto no. Chiedete a un disabile che cosa vuol dire girare per Roma tutti i giorni. Le Olimpiadi lui le fa tutti i giorni. Vabbè, questa è una puttanata quella sul disabile, dai, questa totale, è demagogia, questa totale è demagogia. Allora, il no alle Olimpiadi è legittimo, cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Sbagliatissimo. Perché? Roma non può sopportare una cosa di questo tipo, è una latrina a cielo aperto, diciamolo chiaramente, ci sono cose più importanti e poi soprattutto una cosa, se c'è una coerenza nei 5 Stelle, anche se con dei ripensamenti, con delle incertezze, per carità, è quella di avere proposto la candidatura della Raggi insieme a noi alle Olimpiadi. Si sapeva questa cosa qua, si sapeva. Ma che si sapeva? Raggi ancora, Raggi. È dai responsabili dire sì a questa candidatura. È dai responsabili, l'abbiamo detto con forza in aula Giulio Cesare a giugno del 2015. Mamma mia, che noia, ragazzi, però la Raggi quando parla, due coglioni, no? Comunque, la cosa che bisogna dire è questa, caro David. La cosa che bisogna dire è questa qua. No, i 5 Stelle hanno, bisogna dire questo, i 5 Stelle hanno perso un'occasione per dimostrare di essere in grado di governare e di gestire un grande evento come le Olimpiadi con le loro cosiddette mani pulite. Ma quando non mai lo hanno fatto, hanno fatto fare una figura di palta all'Italia e a Roma. Aspetta. E l'ottimo Malagò, le calculo pure a Malagò, il grandissimo, ma che mi frega niente, ho incontrato una volta solo in vita mia. Vai. Non faccio neanche sport, figurati. L'ottimo Malagò doveva sbattergli la porta in faccia e dire: ci avete sputtanato in tutto il mondo dicendo no alle Olimpiadi e non avete coraggio di governare. Governare fermo vuol dire fare le cose e farle bene. Ci sono una marea di sindaci in altre città, città importanti nel mondo, che a un certo punto hanno detto di no alle Olimpiadi. Niente di particolare. L'unica cosa che mi dà fastidio è la demagogia che c'è intorno a questa roba della lobby del mattone, no alle Olimpiadi del mattone. Credo che abbia detto pure una cosa del genere. Il ballo del mattone, conosco. Sentiamo, sentiamo. Io non credo di aver mai tentennato sulle Olimpiadi, abbiamo detto un no chiaro e preciso a giugno 2015, abbiamo detto un no chiaro e preciso durante la campagna elettorale e ci siamo astenuti da qualunque commento durante il periodo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi e ho ribadito. Non vogliamo che lo sport sia utilizzato come pretesto per ulteriori colate di cemento sulla città. No alle Olimpiadi del mattone. Allora, questa cosa delle Olimpiadi del mattone è una puttanata. È chiaro che se tu anche loro utilizzeranno i mattoni, anche loro utilizzeranno il cemento per qualche cosa, nelle strade, cioè, con cosa le faranno? Con la farina? Per costruire i palazzetti dello sport. Non è che uno li può fare con la stampante 3D. Non è che li puoi fare con il cartone. Per forza il cemento ci vuole. Per cui è chiaro che per fare le Olimpiadi ci vuole il mattone. Ma non è che le Olimpiadi del mattone. Le Olimpiadi, durante le Olimpiadi si costruisce con il cemento, con i mattoni, eccetera eccetera. Comunque, il no è sacrosanto. Se c'era un modo per affossare definitivamente Roma, questo modo era fare le Olimpiadi. Però ti dico un'altra cosa, ti dico un'altra cosa. Qualcuno è una dice, tragedia. Ma che tragedia? Ma è quando una tragedia, adesso si veramente pensasse alle cose più concrete. Chiudiamo qui perché è una tragedia. A lutto, chiudiamo la zanzara. Lutto? A lutto per questa vicenda. Ho stappato pure lo champagne, ho bagnato tutto, qua mi chiederanno i danni. Però, ma quale champagne? Acqua gasata. Ti dico solo una cosa, che sì, qualcuno sostiene che la Giunta Raggi dovrebbe risarcire, credo, i 15 milioni di euro che fino adesso sono stati spesi per la candidatura di Roma. Certamente. Altra puttanata. E ti dico di più, è esattamente il contrario. Era chiaro fin dall'ottobre del 2015, quando si era dimesso Marino, che le Olimpiadi erano a rischio. Dunque tutti i soldi che sono stati spesi dall'ottobre del 2015 in poi dovrebbero essere restituiti. Sono loro che ci devono restituire il mal tolto. I soldi sprecati nella candidatura. Ridateci i soldi. Era reale e pazzesco. Ma quando mai? Ridateci i soldi voi. Devono chiedere i danni alla Raggi e ai 5 Stelle per la totale incapacità. Il governo che dovrebbe ridare i soldi ai contribuenti per aver sprecato i soldi in una candidatura che era già sconfitta in partenza. Dai, ridateci i soldi e basta. Quale sconfitta la candidatura? Era già sconfitta dalla vittoria della Raggi, già era morta. Dai, già era morta la candidatura. Parte e che anche la Raggi ha detto che avrebbe fatto il referendum e non l'ha fatto. Questo è vero. Ha deciso la rete, ha deciso. Ma chi ha deciso? Sentiamo chi un po' la Raggi sul referendum. La Raggi sul rete, chi ha deciso? Se i romani, che fino ad oggi in campagna elettorale non mi hanno mai parlato di Olimpiadi, mi dovessero chiedere un referendum, valuteremo il referendum. Ovviamente, però, esponendo tutti i pro e i contro. Vabbè, aveva detto se i romani dovessero chiedere un referendum. E cosa fa? Cioè, secondo me i romani vanno lì in comune a bussare. No, scusi, signora Raggi. È una puttanata. Poi dove glielo chiedono? Via mail? Che roba è? Via Skype? Come glielo chiedono? È una puttanata, infatti. Dai. Allora, Salvini, ieri su Rai 3, è tornato sulla vicenda di Napolitano e Ciampi, traditori e complici del disastro, eccetera, eccetera. È tornato Salvini dopo un lungo silenzio, no? Mi pare. No, veramente parla sempre Salvini, comunque. Salvini, sempre così schivo rispetto alla televisione. Ciampi, interessante. Traditore nei fatti. È una frase un po' imbecille dare del traditore a Ciampi, me lo faccia dire. È nei fatti. Ha svenduto 48 mila miliardi di lire di risparmi degli italiani che sono finiti in tasche di qualcun altro e si vantava di essere un padre fondatore della moneta unica, che secondo me è una moneta criminale. Quindi lei oggi ridirebbe traditore a Ciampi? Cordoglio, vicinanza alla famiglia, non solo, è in buona compagnia. Napolitano, Prodi, Monti. Sembra un po' Mauro da Mantova, sì, Salvini, bravo, quando esatto, dice queste bravo, cose. Sì. Bravo, esatto. Mauro da Mantova. Bravo, esatto, questa è cosa giusta, giusta. Ma tu te la ricordi la frase, quella che disse Pippo Baudo sulla Dama Bianca, David, anche qui alla Zanzara? Tra l'altro, Pippo Baudo sulla Dama a un certo Bianca. Punto c'è il caso della Dama Bianca, quella che torna, l'ex assistente di Berlusconi, che torna dalla Colombia, viene arrestata perché ha la cocaina, è stata anche condannata, credo in primo grado, eccetera, eccetera, ha fatto tanti anni di carcere, tanti mesi di carcere, adesso credo che sia ai domiciliari, se non sbaglio. E all'epoca Pippo Baudo la apostrofò in questo modo. E potrebbe finire sotto processo Pippone, per la frase che ha detto. Senti. Personaggi che danno degli esempi squallidi, avete letto sui giornali recentemente, una ragazza l'hanno chiamata la Dama Bianca, una ragazza la quale seguiva politici all'estero, era impiegata addirittura alla regione a Roma. Ebbene, l'hanno beccata a Fiumicino con 25 kg di eroina, questa mignottona. Allora, no, scusate, no, vabbè, insomma, scusate, beh, ma allora, ecco, allora. Vogliono portare Pippo Baudo in tribunale per avere dato della mignottona alla Dama Bianca. Però scusa, la Dama Bianca, anche se è una trafficante, cioè ha portato la cocaina, no? Se dovesse essere condannata in via definitiva, se non mi ricordo come è andato il processo, beh, non è che uno può dire mignottona così a cazzo di cane, sì, no, ma nessuno tocchi Pippo Baudo, anzi credo che sia un'iniziativa giusta quella della Zanzara, questa che ti precedo, di devolvere i nostri cachet interamente alla difesa di Pippo Baudo. Ma quello c'ha un sacco di soldi, ma quali i tuoi cachet? Cachet, i tuoi, non i miei, e quindi credo che, ma bravo, è una cosa generosa che fai, e che per un anno il tuo cachet verrà interamente devoluto all'avvocato, ma che difenderà Pippo Baudo. Ma non è vero, so, sei modesto, non volevi dirlo, lo dico io. No, bravo, ma non lo dico perché non lo voglio la tua, fare. Il mio no, perché no, è modesto. Ma la tua, ma è una mossa signorile, bravissima. Allora, ma non è due vero. Punti, non leggerlo, scrivilo. Cruciani devolverà un anno del suo, un applauso dalla regia. Grazie, Cruciani. Ma non è vero. La tua generosità, no, perché sei ma modesto. Quello è ricco, su questo è molto più ricco di me, no, Pippo Baudo. Ma perché tu lo fai come gesto politico a difesa della parola mignottone. E quindi te ne siamo grati, perché sei, non lo vuoi dire, sei modesto, sei tranquillo, sei anche solidale, non lo vuoi dire, lo diciamo noi. Grazie, Cruciani, per i soldi che devolverai a Pippo Baudo nella difesa del mignottone, della parola mignottone. Però noi non ci vogliamo dimenticare di Radio Padania, ragazzi, eh. Dunque vi, vabbè, facciamo risentire, vi facciamo risentire questa frase fantastica. Vediamo che ti piacciono i gabinetti a te. No, no, però è fantastica, io la voglio fare risentire, perché quando uno perché dice da Radio Padania che la mafia è meglio dello Stato, dopo aver preso per anni il finanziamento pubblico, penso che si sia raggiunto il massimo. Pellegrin, il signor Pellegrin, non Varin come dici tu sempre, Pellegrin. Vabbè, uguale sono. Sì, la N sono finale uguale. Preferirei davvero essere governato dalla mafia piuttosto che dallo Stato italiano. E questa è la mia posizione. Preferirei la mafia, la provincia, la città anche nella quale vi è il minor numero di furti in appartamento è Palermo. Ecco, la mafia, se io mi difendo dal ladro, la mafia non viene a mettermi in galera. Lo Stato italiano, se io mi difendo dal ladro che viene in casa mia e minaccia i miei cari, lo Stato italiano mi processa, minimo, su questo è sicuro, perché c'è l'azione penale. Cruciani, ma a me che sto in mezzo al traffico, chi me ne frega del traffico? Ma la Zanzara. Get your motor running. Head out on the highway. Il Parenzo si vede che è un protetto, un raccomandato. Se vivesse di cose reali come viviamo tutti noi, morirebbe di fame. Francesco da Milano. Sì, pronto. Dimmi, dimmi Francesco, dimmi. Sì, allora, io credo che la situazione delle Olimpiadi sia piuttosto ambigua, per utilizzare uno sgarbo. Che vuol dire ambigua? Non c'è nessuna, non c'è nessuna ambiguità, ha detto no, di no alle Olimpiadi. No, non è che ambigua che cosa? Non cos'è che ambiguo? Non ho capito. È ambiguo il fatto che nel 2016 milioni e milioni di persone vadano dietro a questa grandissima celebrazione di che cosa? Di persone che fanno una gara di corsa. No, ma ragazzi, le Olimpiadi sono una cosa nobilissima. Le Olimpiadi sono una cosa straordinaria, un evento bello. Ma uno va a vederlo dal vivo, va a vedere dal cosa, vivo le persone che Francesco, adesso stiamo parlando di un'altra cosa qui. Stiamo parlando delle no di Roma alle Olimpiadi. Cosa c'entra adesso la tua sensazione nei confronti delle Olimpiadi? Chi se ne frega? Chi se ne frega se non chi se ne frega se non le fanno? Sono perfettamente ma se tu te ne fotti, se tu te ne fotti non le fanno, va bene, d'accordo, ma ci hai chiamato per dire che cosa? Non ho capito. Per dire che tu te ne freghi delle Olimpiadi. Che te ne freghi delle Olimpiadi, che cosa? Che lo sport non è la celebrazione di una manifestazione mondiale sulla televisione. Ma che a noi, che cazzo ce ne frega di quello che tu pensi dello sport? Spiegami. Ma che ce ne frega di quello che tu pensi dello sport? Non ce ne frega un cazzo di quello che pensi dello sport, è chiaro o no? No, nulla di quello che tu pensi dello sport, di come intendi tu lo sport, lo vai a raccontare ai tuoi amici. A noi qui interessa sapere cosa ne pensi del no della Raggi. Se non hai nulla da dire, non chiamare e non ci rompere i coglioni. Vincenzo da Napoli. Ciao Francesco, non rompere i coglioni, dai. Vincenzo da Napoli, dai. E che cavolo, dai. Come stai? Dimmi, dimmi. Non mi fate arrabbiare subito, no? Con cose no, inutili. No, non mi fate arrabbiare. Senti, io sono d'accordo con te sulla questione, diciamo, Olimpiadi a Napoli. Sono d'accordissimo. Ma quello che c'entra Olimpiadi a Napoli è un'altra storia, dai. Vabbè, roba vecchia, due settimane fa ne abbiamo parlato, dai. No, vabbè, ho tentato di vabbè, Vincenzo, parlare, ciao. Patrizio dalla provincia di Monza. Stasera sono furioso. Eliminato. Patrizio, provincia di Monza. Furio, eliminato, ciao, subito. Ciao, dai. Cosa? prima Parenzo ha detto: ma quale lobby del mattone? Ma dove cazzo vive Parenzo? Ma a dove Roma. Cazzo vive? A Roma. Ma, ascoltami. Vabbè, Roma le lobby esistono, lobby però le lobby esistono, ma non è detto che siano negative le lobby. Milano, ma fare le Olimpiadi a Roma vuol dire far ingrassare tutti quei farabutti. Ma chi l'ha detto? Da Mafia Capitale. Ma chi l'ha detto? Ma non governano i 5 Stelle adesso, scusi. Però questo è vero, governano i 5 Stelle. Ma, potevano... no, ma che discorso è? Ma valeva prima, questo poteva valere prima quando c'era il PD cattivo, quando c'era Alfano cattivo. Oggi ci sono i buoni al governo, no! Oggi ci sono i buoni! Ma scusi, ma che dice? Ma che dice lei? Ma se oggi governano i 5 Stelle, ci sono i buoni, sapranno arginare la lobby del mattone. Ha ragione, Patrizio, su questa ragione. Parenzo. Aspetta, Patrizio, scusami. Patrizio, scusami un attimo, su questo però ha ragione Parenzo. Cioè, se tu no, lascia perdere. Citare la lobby del mattone significa dire io non sono capace di gestire i costruttori a Roma. Questo significa. Dunque, non dicesse stronzata la Raggi, dicono no le Olimpiadi perché l'hanno detto durante la campagna elettorale, va benissimo. Ma però siamo tutti d'accordo. No, io non sono d'accordo. Ma allora non facciamo neanche più le strade, allora non facciamo più i piani edilizi per costruire le case popolari perché c'è la povera cretino. Siete dei salami. I 5 Stelle devono svegliarsi, vogliono governare, facessero vedere quello che sanno fare. Altro che lobby qui, lobby là. Governassero contro le lobby allora. Sì, Patrizio, ma per fare le case popolari, come dici tu, per fare le case popolari qualcuno le fa le case, no? Mago Merlino le fa, chi le fa? I costruttori le fanno le case, chi le fa? Le stampanti, chi le fa le case? Dai, tu non diciamo stronzate. Se dire no alle lobby del mattone significa non essere capace di gestirle. Punto. Cioè, se tu sei contro le lobby, allora agisci contro le lobby. Ma dopo centinaia di anni che le lobby dei mattoni hanno gestito Roma, perché non è allora non costruite nulla adesso. Non fate le metropolitane neanche allora. Dire no alle lobby del mattoni per le Olimpiadi e dare un segno. Ma cosa non vuol è dire no alle Olimpiadi perché allora, dire no alle Olimpiadi è legittimo. In nome del no, dicendo per dire no alle Olimpiadi e citando la lobby del mattone è una stronzata. Nazario ma da Forlì. È una stronzata, punto allora e basta. Non fate neanche le case, non fate nulla. State Nazario fermi da Forlì. Ma io sono contrario alle Olimpiadi, ma non in nome del no alle lobby. Quella è una puttanata. Nazario da Forlì. Pronto, dai. Pronto. Dimmi. Buonasera. Allora, intanto, se non ricordo male, nel 2011, quando il governo Monti disse no alle Olimpiadi di Roma, disse no chiaro Monti, mi pare di ricordare che sicuramente Vittorio Zucconi assolutamente, come David Parenzo fossero contrari. Bravo. E d'accordo. Questo hai fatto bene a ricordarlo. Non mi ricordo, okay, non mi pare però, preciso. Non mi pare. No, si può riverificare negli archivi della radio. Sì, si può verificare, accetto la sfida. Accetto la sfida cose. E nel caso... Adesso nel voglio caso, chiedere a David Parenzo, visto che è un giornalista e col quale si può interloquire, che cosa è cambiato oggi nulla. A livello di panorama economico una cosa italiano, molto semplice. Nulla, non è cambiato niente. È cambiata una cosa... pubblico è aumentato. No, è cambiata una cosa molto semplice. Le I 5 Stelle, quindi, i debiti sono aumentati. No, è cambiata una cosa. Di un io voglio che ha dimostrato che... i debiti delle Olimpiadi. Sì, ma lo sappiamo, lo sappiamo. Io voglio vedere, i 5 Stelle alle prese col governo vero delle grandi cose. Io voglio vedere i 5 Stelle che oggi governano Roma alle prese nella gestione di un grande evento. Io voglio vedere questo da cittadino. Voglio vedere i 5 Stelle alle prese che arginano i però è vero, David, come che... un partito come i 5 Stelle gestisce una cosa complessa però come le Olimpiadi. È vero, solo questo è vero vedere. David, che molti esponenti del Partito Democratico e giornalisti vari, quando Monti disse di no alle Olimpiadi, dicevano: ah, bellissima, essere, una decisione certo, responsabile, il debito pubblico, eccetera. Può oggi diciamo, le cifre economiche del debito pubblico essere, non sono cambiate, sicuro. eppure sicuro, molti essere. Dicono che è una scelta irresponsabile. Non lo nascondo, può essere. Pier Giulio Bergamo, dai, veloce, dai. Pier Giulio, dimmi. Ascolta, allora io sulla Raggi vorrei dire le opere incompiute. Sei che... troppo lento, sei lento. Ci sentiamo dopo. Sei lento, lentissimo. Stavo ascoltando Radio Capital adesso. Zuccone è molto più divertente. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. La Zanzara. Appena dato un esame di ingegneria nucleare. Adesso ho finito, attacco la zanzara e non mi dovete rompere il cazzo. Libertà, anche se usa 2B, Parenzo, perché pigli sempre in giro la gente che interviene? Cosa credi di essere meglio tu? Ma ti sei vista allo specchio? Parenzo, menti spudoratamente, lo sai che l'unico evento possibile a Roma è quello di amministrare Roma. Ciao! Grande Raggi, così hai detto e così hai fatto, niente Olimpiadi all'Italia, a Roma in generale. Ci sono ancora in giro gli scheletri di Italia 90, Parenzo vai a fanculo, va, saluti! Ma secondo voi la zanzara, cioè radio della Confindustria, non è d'accordo col magna magna delle Olimpiadi di Roma? Ma scusate, dai, ma facciamoci. Ma non facciamo ridere i polli! Ecco un altro cretino, a me non me ne frega niente di quello che pensa Confindustria sulle Olimpiadi, tant'è che in questa trasmissione libera il conduttore dice tranquillamente no alle Olimpiadi. Poi c'è Parenzo naturalmente che dice di sì alle Olimpiadi, ma tutto è trasparente, tutto è libero, qui non c'è qualcuno che dice Confindustria è d'accordo con le Olimpiadi, non ce ne frega assolutamente nulla di quello che pensa Confindustria sulle Olimpiadi, anche perché non ce lo comunicano, Parenzo, non è che qualcuno ci dà il bollettino quotidiano di quello che dobbiamo dire, no? Bravo, peraltro adesso mi sta scrivendo Robert Hannuna, che è un mio amico da Israele, che sta ascoltando. Robert Hannuna. Vabbè, ma che ce ne frega noi adesso di Robert? Comunque, vabbè, di Robert, come hai detto, Hannuna. Hannuna, là, come diavolo si chiama? No, dai, beh, no, non puoi come trattarmi diavolo, così. No, ho detto come diavolo si chiama. Vabbè, allora. Mi ha scritto, ti voglio bene, fratello, manda a quel paese tutti quelli che ti insultano. Vabbè, ma che c'entra cioè, questo? No, quello fai cioè, bene a mandarli a quel paese. C'è una parte di paese che sta con me anche se sta all'estero. Perché anche un grande, se non chiama, dici tu. Esatto, anche se non un grande talento, un cervello che è fuggito all'estero. Ma dice, tieni duro, forza, ti voglio bene, fratello. Cruciani, sei un povero cafone, scrive Orma. Non so, capisco perché. Ma questo. Che perché dice che sei un povero cafone, questo so, cretino di Cannuna? Ehi, là, Robert Cannuna, ma grande. Che un cretino che mi dà leccafone, questo è un imbecille. No, ma come scusa, ti permetti? Pasco, mi ha dato leccafone, ma questo è un imbecille. Ma chi è? Ha ragione. Come chi è? Robert Hannuna. Ma chi cazzo me ne frega, mi dà leccafone per interposta persona? Scusa, diglielo, scrivi Cruciani, due punti. Ha detto che sei un imbecille, un cretino. Chiamasse in diretta qui alla Zanzara invece di fare lo spavaldo con i messaggi a te. Cruciani è un cafone. Ma perché? Ma chi sono in culo questo? Ma chi l'ha mai conosciuto? Ma chi l'ha mai conosciuto questo qua? Fai male perché invece è un grande talento. Perché mi deve dare il capone? E ti ascolta da Israele. Ti ascolta da Israele. Questo è buono, il grande Robert. Buono, il grande Robert. Vabbè, Giorgio da Roma, vai, Giorgio. Sì, ciao, buonasera. Dimmi. No, volevo dire soltanto delle Olimpiadi. A parte, io sono a favore che non vengono fatte per i motivi che Roma ha tanti problemi in più. Sì. Però volevo sapere il parere del dottor Parenzo. Quando. Su che cosa? Dottor Parenzo è una parola grossa. Parenzo. No. Quando Monti, anche lui, aveva detto che non andavano bene le Olimpiadi. Che cosa ne pensavo in quel momento? Ma forse all'epoca ero contrario, se non mi ricordo, ma oggi sono favorevole perché i 5 Stelle, che sono il nuovo che avanza, devono dimostrare di essere in grado di governare anche questo? Cose complicate. Uno può come governare anche senza l'Olimpiadi, non dire stronzate, questa è una stronzata. Loro devono confrontarsi con il governo di una cosa complessa come quella. Ma ok, ma se hanno detto di no durante la campagna elettorale, perché devono dire di sì? Scusa. Intanto menti, non hanno detto di no. Come no? Hanno detto che avrebbero fatto un. Sono sempre stati contrari, non essere. contrari poco, no, sono sempre stati contrari. Hanno dai, detto su, che avrebbero deciso i ma romani. Ma il referendum sono le Olimpiadi, il 70% quasi ha votato per la Raggi, si dice che la maggior parte dei romani non vogliono le Olimpiadi. La Raggi non ha detto che non le vuole, ha detto che avrebbe fatto un referendum. Ha detto sempre no in mille salse, allora, i 5 Stelle a Roma. Come dai, vi piace a voi, piegatela come vi piace. Ma dai, ma se c'è una cosa su cui sono coerenti è questa, dai, su una cosa. Ma coerenti su che cosa? Che ha detto che deve decidere la gente. Ermanno, Ascoli, e la gente ha deciso votando la Raggi. Buonasera, buonasera. Innanzitutto volevo appunto sottolineare il fatto che fare le Olimpiadi sarebbe un tradimento del mandato elettorale che non va sottovalutato in nessuna forma. Vabbè, allora? E poi un'altra cosa che volevo dire, dato che il signor Parenzo sottolinea, mi sembra aver capito, lui voglia mettere alla prova i 5 Stelle. Io penso che ci sono tanti modi, l'amministrazione di una città non è che può passare solo dalle Olimpiadi, dai su, non diciamo stronzate. Esatto, dai. Esatto, apposta, quindi... il signor Parenzo dovrebbe capire che è come dire a un bambino dell'asilo mi faccio una tesi di laurea. Qui bisogna capire che questi sono arrivati adesso, per carità di Dio. Vabbè, saranno che capaci. Scusami, adesso non è che vogliamo... 15 giugno 2016 c'entra. Virginia Raggi twittava: siano i romani a decidere, non i partiti. Se i cittadini me lo chiederanno, proporrò un referendum consultivo sulle Olimpiadi. 15 giugno 2016. Ma che vuol dire? Ma cosa gli devono mandare una mail? Lei dice: se i cittadini lo chiederanno, l'hanno chiesto. Anche lei ha avuto delle incertezze. Dopodiché, per fortuna, vabbè, si è mantenuta la decisione iniziale. Io ho stappato lo champagne. Giancarlo dalla provincia di dell'acqua Cremona, dell'acqua gasata, no, champagne. Giancarlo, provincia Cremona, Walter, provincia Ferrara, dai, Walter, Ferrara. Ciao Beppe, sono Walter. Dimmi. Tutta sta gente, ciao Beppe, ma chi è? Io cazzo, ti dico come la storia della Raggi. La Raggi se la sta facendo nelle braghe. Hanno fatto i fighi nelle elezioni. Che dicevano, le Olimpiadi non le facciamo per prendere i voti. Però l'hanno fatto soltanto perché... avevano paura poi di dover gestire il mattone. Però cosa c'entra la paura? È chiaro che finiva così. Ha ragione Parenzo per una volta. Ma quando? Mi vengono i conati, ma ha ragione Parenzo. Sì, bravo. Ciao, giusto, Walter. Giusto. Ciao. Bravo, Walter. Allora, mi viene da ridere, David. Ti ricordi il sindaco l'altro ieri, il sindaco di Nicotera, quel paese sì, calabrese, no, eccetera, no, certo, e che praticamente quello dove è stato il funerale show, diciamo, il funerale con l'elicottero, sì, e poi la chiusura del centro. Il sindaco non sapeva niente, praticamente non conta un cazzo in quel nulla, comune là. Il sindaco nulla, ce l'ha detto anche chiaramente, sì. Si è scoperto che uno era presente alla cerimonia, cioè praticamente al pranzo di matrimonio. È andato lì al pranzo di matrimonio con il suo vice sindaco, prima cosa. Seconda cosa, hanno chiesto lo scioglimento per mafia, per infiltrazioni mafiose pure, del comune di Nicotera. Infiltrazioni mafiose. E inoltre lo stesso sindaco, sì, intervistato dalla RAI, ha detto una cosa incredibile. Te la faccio sentire, una cosa... Sentiamo. Il microfono era un po' distante, il microfono. Però, sai che c'è una cosca lì che si chiama Mancuso, no? Come la cosca di Mancuso, certo, come... Senti cosa ha detto il sindaco. Ma secondo lei, no, cioè voglio dire, con tutto quello, per come si dice, ma i Mancuso si sarebbero occupati di queste cose, hanno altre cose più importanti da fare. I Mancuso hanno cose più importanti da fare, non occuparsi dell'atterraggio di un elicottero al centro di Nicotera. Hanno cose più importanti i Mancuso. Allora, dove andiamo? Andiamo a Barbara Treviso, vai. Barbara, dimmi. Buonasera. Dimmi. Io volevo spezzare una lancia in favore della Raggi. Sì, ma stai parlando col viva voce? Stai parlando col viva voce? No. Stai parlando con l'auricolare? Neanche l'auricolare. Non si sente un cazzo. Filippo da Torino, dai. 100% d'accordo con Parenzo. I 5 Stelle hanno gettato la maschera, avevano l'opportunità, ricevendo soldi, di far gestire una città bene. Sono populisti, non cambieranno niente, hanno un'occasione pazzesca. Dite alla Raggi che il 70% dei romani ha votato per avere una... No, ha votato la Raggi, che aveva detto i 5 Stelle avevano detto di no alle Olimpiadi, in mille salse, dai. Ha votato per avere degli assessori che durano più di una settimana. Vabbè, quello è un altro discorso, ma nessuno... Siamo stati qui a bastonare i 5 Stelle fino all'altro giorno, per cui non abbiamo problemi da questo punto di vista, guarda. Cioè, non abbiamo il prosciutto davanti agli occhi, eh. Luigi Catania, vai. Il prosciutto io non ce l'ho perché non lo mangio. Luigi Catania. Volevo sapere i soldi chi li mette, perché se io fossi un amministratore e mi danno i soldi lo Stato o il CIO... Ma perché cosa? Scusami, perché le Olimpiadi? Per le Olimpiadi. I soldi alla fine li mettono sempre i contribuenti, perché così è stato in tutte le Olimpiadi che sono andate e hanno fatto buchi di bilancio pazzeschi, almeno le ultime 10 Olimpiadi, chiaro? Poi uno ma può che dire. Ma uno... provassero a star bene. Ma non è che loro gestiscono le Olimpiadi in tutto, eh? Cioè, c'è un comitato organizzatore, cioè non è che tutto passa attraverso il comune quando si fanno le Olimpiadi. Cioè, però... quindi, poverini, questi poveri cristi non sanno governare. Ma che vuol dire non sanno governare? Hanno detto, alla fine, nonostante i tentennamenti, la posizione era abbastanza chiara. No alle Olimpiadi. E questo hanno mantenuto. Ma ragazzi, se c'è una cosa coerente è questa. Poi uno può dire mille cose. Quella aveva detto il referendum. C'erano divisioni all'interno degli stessi grillini. Però la cosa era abbastanza evidente. Il no alle Olimpiadi da parte di Grillo, di Battista e di altri è stato ripetuto in mille forme, in mille salse, in mille comizi. Dai, su. Hanno mantenuto una posizione che era quella iniziale. Su questo non ci sono, non c'è discussione. Italia Morale, Italia Morale, vuole Italia Morale, Italia Morale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Caffè Society, il nuovo film di Woody Allen dal 29 settembre al cinema. La Zanzara. Allora, qualcuno mi ricorda giustamente che Di Maio, in qualche intervista prima delle elezioni a Roma, esatto, disse una cosa molto semplice: sia alle Olimpiadi se vinciamo noi. Cioè dice sostanzialmente quello che dice Parenzo, cioè esatto, noi siamo in grado, no, di gestire... Dice anche Robert Cannuna da Tel Aviv che me l'ha segnalato. Ma che cazzo è sto Robert Cannuna, no, da Tel Aviv? Però, scusa, no, spiegami, però, abbi pazienza, però, dai. O hai un linguaggio... Meglio Mauro più... da Mantova, no, scusami. Robert Cannuna da Tel Aviv mi ha mandato esattamente questa cosa qui. Cioè mi ha detto Di Maio, perché? Sia alle Olimpiadi a Roma solo se vince 5 Stelle. Cioè, Cannuna è uno preciso che ma sa allora, tutto. Che i 5 Stelle siano stati a lungo divisi su questo, non c'è dubbio. Che però quelli che poi hanno vinto al comune, cioè la Raggi e quelli vicino alla Raggi, abbiano avuto una posizione molto chiara sulle Olimpiadi, questo è evidente, cioè alla fine certo, ha vinto questa posizione qua, quella di Battista, quella di Grillo, quella diciamo più movimentista, ecco, e dunque è arrivato il no alle Olimpiadi, cioè non è una sorpresa, non è una sorpresa, è una vergogna che da un anno a questa parte, nonostante i dubbi che c'erano sulle Olimpiadi dopo le dimissioni di Marino, qualcuno abbia continuato a spendere un sacco di quattrini, un sacco di quattrini. Sì, esatto. Mi dicono che Casa Italia alle Olimpiadi di Rio, Casa Italia, con quella grande presentazione di Roma 2024, sia costata tra i 3 e i 6 milioni di euro. E non, nessun'altra città ha fatto queste candidata ha fatto queste grandi presentazioni. Nessuno, nessuno. Vabbè ragazzi, che dobbiamo fare? Dobbiamo parlare delle Olimpiadi tutto il tempo? Che dobbiamo fare? Vabbè, dai. Simone, provincia di Firenze, dai. Ciao. Dimmi, dimmi. Io voglio dire una cosa, bisogna parlare soltanto di numeri. Non è sostenibile, ma per i numeri, Roma, basta, i numeri, fine discorso. Ma i numeri, non è sostenibile, non ci sono soldi, ne avete chiesti troppi, basta. Parenza, hai rotto coglioni, devi smettere che i soldi che non sono tua. Oh bellino, oh pallino, calmati un po', pallino, oh pallino, ti ricordi quando dice sempre pallino? Facile, perché è con degli altri. Oh pallino, calmati, pallino, calmati. Da dove chiama pallino? Quindi da dove? La provincia di Firenze. La provincia di Firenze, calmati. Che dici, Simone? Non ho capito bene. Che è facile fare il gay col culo di quegli altri. Il frocio col I culo degli altri, sì. A Roma non ce l'hanno, non c'è neanche per la carta igienica nelle scuole. E si fa le Olimpiadi, si fa. Caffone. Perché ma quale Olimpiadi? Purtroppo non si fanno le Olimpiadi. Non si fanno perché le Olimpiadi. Perché cafone? Non ho capito perché cafone. Perché è un cafonazzo, parla come un cafone, un cafone. Perché? Sono un cafone, sono un cafone, però tanto le Olimpiadi non si fanno, grazie a Dio. Va bene, Barbara Treviso, dai, Barbara. Sera, mi sentite adesso? Sì, ti sentiamo, dimmi. Sì. Ecco, volevo dire che la coerenza della Raggi è esemplare. Esemplare, hanno avuto un sacco di casini interni pure loro, dai su, no, dai. No, è coerente. Non diciamo cose. A me piace il tifo comunque, il tifo mi piace. Ma sì, ma nel programma non c'era scritto no a caratteri cubitali. Cioè, diciamo che si è sempre saputo che una parte di 5 Stelle... sarebbe stato grave che avessero contravvenuto quello che invece è stato il leitmotiv di una campagna elettorale. Non perché lo volevano loro, ma perché lo voleva il PD. Il PD era, ne ha fatto proprio la bandiera. La bandiera delle Olimpiadi, non mi pare che abbiano fatto la bandiera, erano disperati. No. E quindi questa è serietà e trasparenza. Io ho sentito il discorso della Raggi, era assolutamente pulito, non ha detto ho paura delle lobby, non ha detto questo. Ma no, ho paura, questa cosa delle lobby. Le priorità di Roma sono altre. E noi manteremo fede a quello che abbiamo promesso. Mi pare che tu sei molto, molto grillina su questa cosa qua. Io assolutamente non ho mai votato il Movimento 5 Stelle in tutta la mia vita, sono di tutt'altra bandiera politica, posso garantirlo. Va bene Barbara, ciao. Luigi, Roma, vai. Luigi. Io sono un po' anziano, ho vissuto le Olimpiadi del 60. Allora, Roma è stata, ancora è stata paghiamo portata. Qualche debito per quelle Olimpiadi? Alcuni... No, ci abbiamo pure il debito, ci avremo pure il debito, però. Ancora paghiamo delle cose per quelle Olimpiadi? Roma, lì. Ma oggi si cammina. Si abita, tutte le case fatte per il centro, eccetera, sono abitate da cittadini. Ma che c'entra, scusami? Quindi non dicessero stupidaggini, perché abbiamo lavorato, si lavorava in quel periodo dell'Olimpia. Sì, ma, ma non è che si trovava il lavoro. Giorni, allora, ma per 20 giorni si trovava lavoro. Questi sono oscurantisti, questi non vogliono fare niente, non vogliono prendere nessuna iniziativa. Ma adesso vedremo, insomma, intanto hanno detto di no alle Olimpiadi, ci sono 5 anni in teoria per prendere iniziativa. Si vede dal mattino e poi chi va a letto con i bambini, la mattina si trova con la cacca addosso. Ma che c'entra, scusa? E questa è la situazione di Roma. È una metafora, era, dici, una metafora. Dai, una metafora. Sono 3 mesi e mezzo che stanno là, non hanno fatto niente, dai. Infatti li abbiamo attaccati. Gli assessori, ma dove siamo? Ma no, ma Luigi, ma le critiche ci sono ed è giusto che ci siano, anche noi abbiamo... No, non ci sono le critiche, non far nulla, questi si ammazzeranno, uno dice sì e uno dice no e non si farà nulla. Nulla. Vediamo che succede. Dimitri, Milano, nulla, vai. No, come non si è fatto in questi 3 mesi e mezzo. Dimitri, sono 3 mesi e mezzo. Penso che nessuna città d'Italia sta nella situazione di Roma, che in 3 mesi e mezzo ancora non c'è. La maggior parte delle delibere sono state fatte sui nomi e sulle poltrone fino adesso, la maggior parte delle delibere. Però aspettiamo. Dimitri, Milano, vai. Sì, ciao. Allora, una considerazione veloce. Parenzo lo stimo perché è una persona intelligente e lungimirante. Devo dire che culturalmente ti dà la paga tutte le volte che vuole, che dimostra sempre di essere sempre sul pezzo. Vabbè, grazie. Però a volte, come dire, anche lui perde a lume la ragione, perché, e vi faccio un esempio, Roma, un paziente in fin di vita, lo danno a uno staff di medici, cui primario è la Raggi. La Raggi deve decidere se mantenere in vita questo paziente oppure decidere se fargli fare le Olimpiadi. Cosa decide? Di tenerlo in vita o invece di rischiare e di ucciderlo definitivamente? Ma infatti questo è il ragionamento. La scelta della Raggi è: c'è una situazione di crisi, devo decidere quale intervento fare su Roma. A un certo punto qualcuno decide: no, beh, aspetta, prima di fare l'intervento che potrebbe salvargli la vita, pensiamo a portarlo al mare, no? O portarlo da qualche parte, che magari gli allevia. Ma qual è la scelta corretta? No, no, ma ho capito, Dimitri. Ciao, grazie. No, ma ho capito. Ciao. Allora, oggi una televisione nazionale ha mandato in onda un servizio da predappio, cosa nuova, Sì. Servizio da predappio. Senti le voci sul commercio dei cimeli fascisti o delle immagini fasciste a predappio, cosa nuovissima. Senti. Io sono fascista e me ne vanto. Ora prenderò anche delle magliette e forse anche qualche altro souvenir. Felpe con scritto boia chi molla e onore e fedeltà. Io ho un locale, vengono qua apposta per comprare le magliette, le possono comprare in altri posti, però c'è la firma di Predappio, ci tengono di più, è solo una cosa di nostalgia e di cuore, nient'altro. E quindi ce ne fossero di più di negozi sarebbe molto meglio. Allora, senti cosa dice la russa in studio, La russa? La russa, la russa sì. Ma sì, la russa sì. Chi è? Una signora? La signora russa? No, la russa è quello, ti ricordi, ex ministro, te lo ricordi? Ignazio la russa. Ignazio la russa, sì. L'ex ministro della difesa. Sì, adesso è con Fratelli d'Italia, lo sai, no? Sì, ma intanto che non lo sentivo. Pensavi che fosse scomparso dalla circolazione. No, scomparso no, mi dispiace, sta bene, sì. Sì, credo di sì, cioè, comparso in una trasmissione sulla 7. Beh, sentiamo, benissimo, magnifico. Però una vergogna che a fianco di questi negozi ci sia la tomba di comunque uno che è stato il presidente del Consiglio italiano, poco da fare, che Mussolini è stato presidente del Consiglio legittimo del governo italiano. Ecco, su questa cosa qua ci sarebbe anche da discutere, sì, forse. Un po', cioè, sì, un Mussolini, po', sì. Presidente del Consiglio legittimo, sì, sì, certo, formalmente è così, sì, perché fu Presidente del Consiglio. Però c'è, sì, stato un evento, chiamasi Marcia su Roma, sì, se non ricordo, esatto, male. Ecco, no? Molto bene, esatto. Chiamasi, cioè, dittatura. No, non ci fu una presa del potere, no, democratica. No, no, ecco, no, non ci furono delle primarie, ad esempio, ecco, sì, o delle elezioni, però, dirette. Ognuno la può pensare come vuole, per su Mussolini, carità, per carità. Ma per, eh, carità, per carità. Allora, Alessandro Roma, vai. Alessandro, ciao, da Roma, ciao, vai, dimmi, dimmi. Mi senti? Sì, dimmi, dimmi. Ciao David, senti, volevo, no, se dire... Sei in viva, caro, voce, sei in viva voce. Ciao, caro, ciao. No, no, no, sono al telefono. Dai, dai, forza, sì, dai. Volevo parlare del Fertility Day, lo Stronzata Day. Sì, ma che io mi sono pure dimenticato. Quando è sto Fertility, domani, Day? Ma mi sa domani. Ma che domani, vento, domani. Ma non se lo incula nessuno sto Fertility Day. Cioè, una stronzata del Ministro della Salute, dai. Questa propaganda, beh, per fare figli, no, è una cosa inutile, volevo totalmente, chiedere, dai, inutile, che, inutile. Io sono fidanzato con una ragazza fertile, ma che non può fare figli. Ma quanto... che, come, se è fertile li può fare, scusami. No, ha una cardiopatia rara, civilmente disabile. Vabbè, dunque... Quindi di fatto noi siamo fertili, ma non possiamo avere figli perché rischia di morire per farlo. Volevo sapere da questa fascistella se siamo inferiori, se siamo dei freak, che cosa, no, siamo. Non ho capito, spiegami. Dunque, tu non puoi fare figli per quale motivo? Perché ha una cardiopatia, cardiopatica, ha una cardiopatia rara. Vabbè, ma che c'entra la Lorenzina con questo? Che c'entra il Ministro della Salute, non... scusa? Perché secondo Lorenzino si è fertili o non si è fertili, no? Ma che c'entra? Certo, quella è la realtà, non è che lo dice lei. O uno è fertile oppure non è fertile. Cioè, ma su questo non c'è siamo dubbio. Siamo fertili, cruciamo, ma noi non possiamo fare figli. E vabbè, allora... di morire se fanno figli. E allora... Volevo sapere da lei, da Lorenzino, se secondo lei siamo dei freak, siamo, ma, inferiori. Perché? No, ma per... perché dovresti essere inferiore perché non puoi fare figli? Spiegami. Questo nemmeno... Perché lei ha basato la sua campagna sul fatto che bisogna essere fertili, bisogna stare attenti... Ma capito? No, bisogna informarsi sulla fertilità. Cioè, non che bisogna essere fertili per forza. Tu non hai capito nulla, allora, Alessandro. No. Cioè, uno può criticare questa campagna, noi l'abbiamo criticata, anche perché è assurdo che un ministero si metta a fare manifesti o opuscoli come quelli che ha fatto. Ma cosa c'entra con quello che hai tu? Ma non c'entra niente, niente. Nulla, ma assolutamente nulla. Vabbè, hai detto una stronzata, punto e basta. Molto semplice. Hai detto una stronzata. Abbastanza. Non puoi avere figli per altri motivi. Perché te la prendi col ministro? Scusa, spiegami. Ma dove dovevi prendere i soldi per campare un figlio? Con 280 euro di pensione. Ma quello che c'entra, scusa, ma che c'entra la Lorenzin? Ma che c'entra la Lorenzin? Cosa c'entra la Lorenzin? Ma a me non c'entra, mi sta simpatica. Discriminazione. Ma fa con discriminazione, chi fa discriminazione? Non hai capito nulla, non hai capito niente. Non fa discriminazione tra chi è più fertile e chi più. Non hai capito niente, nulla, assolutamente niente. Mi dispiace per quello che hai, ma non hai capito un cazzo. Siete veramente pietosi. La Zanzara. Allora, però c'è un'altra cosa che ha fatto la Lorenzin, ministro della salute, su questa cosa incredibile del Fertility Day, come se in Italia avessimo bisogno di un Fertility Day. No, beh, è una campagna di sensibilizzazione, ma sul fatto su quando si è fertili e quando no, non mi pare così, vabbè, grave. Comunque, insomma, c'è un opuscolo nuovo, ti sì, giuro, visto, è incredibile questo opuscolo. Quello è l'ho incredibile. Visto, sì. Sì, quello stili è di vita corretti per la prevenzione della sterilità e dell'infertilità. Così c'è scritto su questo opuscolo. Sì, sì, ho visto, È diviso in due parti. La parte superiore ci sono quattro ragazzi. Sembrano, sì, allegri, bianchi, soprattutto belli. Bianchi, belli, sì, sembrano belli, in cui c'è scritto le buone abitudini da promuovere, sì, che non si capisce quali sono le buone abitudini, che cos'è, la simpatia, andare al mare, le coppie, non lo so, le coppie eterosessuali, non si capisce, le buone abitudini da promuovere. E poi sotto, sì, sotto, i cattivi compagni da abbandonare. I cattivi compagni da abbandonare, in cui c'è un tizio rasta, credo nero, che delle fuma. Persone che fumano, forse gli Spinelli fumano, sì, non so probabile. Cosa, cioè, tu ti rendi conto? Cioè, ti rendi conto o no di questa campagna? Ma che roba è? Questa è incredibile. Ma che roba è? Ma come ti viene in mente, ministro, di fare un opuscolo del genere? Ma è una cosa patetica, ridicola, anche un po', non dico razzista, ma insomma, perché adesso non mi va di usare certi termini, ma il tizio con i capelli rasta sarebbe uno stile di vita stereotipi sarebbe dai. Uno stile di vita che non è corretto. E perché non dovrebbe essere corretto fumarsi una canna? Non lo capisco, c'è veramente una cosa incredibile. Luxuria Vladimir, come stai? Bene, ma guarda che i neri fanno più figli di tutti. In realtà dovrebbe dire esattamente il contrario, sì. Frequentate più neri, che in Africa ti danno da fare, fanno un sacco di figli. Sono i bianchi che purtroppo fanno pochi figli. Ah, tu dici che i bianchi sono i neri. Io comunque l'ho preso in parola, l'ho preso, cioè? In parola Lorenzin. Oggi proverò con più uomini a farmi Ci provo, ci provo. Come fai a farti ingrassare? Farò senso, più signora? Prove, farò più prove, sì. E vediamo se è un problema tecnico, se è colpa mia, se è colpa loro. Ma tu non li puoi fare, tu non li puoi fare. Ma lo so che non li posso fare, è una battuta, Giuseppe. Lo so, ma l'ho capito, l'ho capito. No, perché è talmente assurdo tutto questo, mi ricordo un po' i tempi di quando si facevano le pubblicità. Donne tedesche, fate figli per la proliferazione della superiore razza ariana. Sì, sembra una pubblicità mezza nazistoide, dai, su. Cioè, un po' una cosa nazistoide, o sbaglio? Secondo me la gente gli passa la voglia di fare un figlio dopo che vedono questo. Ma non lo vedono proprio, la gente non sta a seguire. Ma brutta proprio, anche come grafica, come messaggio. Ma la gente non sta a seguire le campagne di informazione del Ministero della Salute. Beh, le vede però, ma se le vede, vede magari niente, si arrabbia. Le citiamo noi perché sono nei sui social. Siti le vede, ma appunto. La gente normale, ti pare, mi sono ricordato di questo slogan della Lorenzino? Per fortuna no. Per fortuna non seguono questa cosa. Se uno è fertile, poi non è uno decide di fare un figlio quando lo vuole fare. Se il momento in cui vuole fare un figlio si accorge di non essere fertile, pazienza. Cioè non è che se tu lo sai prima di essere fertile, sono vabbè, fertile. Però ci sta. Faccio un figlio con primo della capita. Salute ti dica non fumare troppe sigarette perché fa male. A ma te fa una campagna fanno, contro l'alcol. Fanno. E quindi lo fa anche contro la fertilità. Il problema è come lo fa, non che ti dica. Questa roba qua che hanno fatto su questo rasta che fumano spinello, che fumano le sigarette, non fumano cose, è veramente una cosa ridicola e anche un po' razzista. Dai, su, diciamo la verità. Tu ti fai le canne ogni tanto, Vladimir? Ma tesoro mio, devo ritornare ai tempi un po' di anni fa. Adesso. Adesso canne, mai più. No. Tutti quanti dicono no, le no, facevo ma un la verità, tempo. È la verità. Un bicchiere di vino, tesoro, cioè. Canne niente. No. Canne no, non più, non più, non più, non più. Senti, non più. A proposito, voglio chiedere a te che sei pugliese, Briatore ha detto una cosa sulla Puglia, sul turismo in Puglia, che è abbastanza incredibile. Sì. Adesso te la faccio sentire, non si sente bene, non si sente bene, però insomma tanto lo sai di che parliamo. Comunque facciamola sentire a tutti, facciamola sentire. Briatore. Vediamo adesso a farvi capire come ragiona un ricco, ok? Voi volete attirare una clientela ricca? Che spenda soldi sul territorio, che venga, che compri, che vada nei ristoranti. Dovete avere anche i ristoranti per questa clientela. Dovete avere la spiaggia per questa clientela. Dovete avere gli alberghi per questa clientela. Dovete avere delle strutture per i bambini di questa clientela. Ma nessuno la vuole quel tipo da clientela. Sta facendo un discorso schifoso. Sta facendo un discorso. Allora siete perfetti. Allora, sostanzialmente Briatore ha detto che in Puglia ci sono solo alberghetti, i ricchi non vengono, non c'è lusso secondo lui, non c'è lusso. Vladimir, che dici? Ma che poi che vuol dire lusso? Cioè la ricchezza, il mare, il sole, una bel bottiglia di Negramare, una bel piatto di orecchiette. Questo è sicuro. Ci sono delle masserie in Puglia. Sì, di lusso, di super lusso. Sì. Ma beh, che hotel di 5 stelle elevate, cioè veramente. Chi è che ci è andato pure recentemente? Recentemente è andata a Madonna, credo. Non so Madonna, chi è fanno i matrimoni dall'India, che arrivano pure. In realtà, i tanti turisti, perché per fortuna sono tanti turisti, anzi, credo che la Puglia sia una delle regioni al sud che ha più turisti. Il Salento è esploso. Amano quella roba lì. Secondo te, che voleva dire Briatore? Non ho capito. Ma Briatore, intanto, dice una cazzata quando trova un comportamento univoco dei ricchi. Ma che ne sa lui? Mica a tutti i ricchi gli piace fare tutti la stessa cosa. Io non so, uno può essere ricco e decide i suoi soldi di spendere come cacchio vuole. Però non può imporre lo stile di vita albergo 5 stelle, magari quei palazzoni enormi, no? No, ma il suo modello, siccome sta aprendo un locale tipo billionaire, ma non mi so. Mi sa che non glielo fanno aprire più dopo questa pubblicità che si è fatta in Puglia. Non lo so, speriamo che invece glielo facciano aprire. Perché lui dice mancano strutture per gente che ha tanta capacità di spesa e quindi. Ma non è vero, ma però c'è gente. Non è vero. Ma non è vero nemmeno questo, perché adesso voglio appunto, dire, io conosco Briatore da tanto tempo, lo considero anche una persona intelligente, ma quando dice questa cosa forse lo dice perché fatemi fare un altro locale, non lo so, perché non ha senso, cioè ci sono persone multimilionari che vanno in Puglia a spendere, cioè, e spendono lo stesso. Ci va, poi ognuno non è che devi per forza ostentarla sta ricchezza con gli yacht, con le cose, lo yacht addirittura io ho visto degli yacht con dei vasi con le palme. Tu mi devi dire uno dice l'unica volta in cui un punteruolo rosso mi sarebbe pure simpatico. Oppure quelli che arrivano nei moli con gli yacht e devono mettere la musica a alto volume perché si devono far sentire da tutti. Quelli sono dei cafoni. Ma scusate, ma Briatore, ricche, Briatore, che sono ricche, che si sono guadagnati i soldi e che li vogliono spendere anche una bellissima. Cioè ci sono queste masserie sì, ma lo so ma Briatore dunque è un cafone secondo te? No, io dico che tutte le persone che ostentano la ricchezza, perché devono far capire, cioè, tu ci andresti mai al billionaire? Ci andresti mai in uno di questi? Certo che ci andrei. Non ci sono mai stata, ci andrei perché io sono una persona curiosa. Ci andrei e non mentirei, non negherei di esserci andato. No, sì, infatti. Questo... Andrei, ma per curiosità sì, però secondo me sì, la gente si diverte molto di più al Gay Village. Si tromba molto di più al Gay Village che al billionaire, te ma l'assicuro. Sì, quello probabile. Perché... Per non parlare di quelli che vanno in queste discoteche e fanno la gara degli spruzzi di champagne. Hai sentito sta cosa? Sì, cioè comprano sì, bottiglie di champagne e se li spruzzano, invece di bere, se li spruzzano addosso, per dire, sai, ho speso tutti quei soldi, ci siamo spruzzati. Ci hanno nient'altro da spruzzarsi addosso, che non hanno altri tipi di gesti, non so, di... Abbiamo capito la metafora. Credo che ci sia quel tipo. Però sì, ci potrebbe essere un modo migliore per divertirsi che non spruzzarsi addosso bottiglie da 1000 euro di champagne sicuramente. Senti, fra poco parliamo delle Olimpiadi a Roma, fermi tutti, fermi. Oh ragazzi, la vostra trasmissione è una bomba. La Zanzara. Allora, caro David, ho scoperto di recente che esistono le crociere gay, cioè le crociere organizzate da gruppi di omosessuali, sì, anche agenzie turistiche specializzate in questo, che portano gruppi, enormi gruppi di omosessuali in giro per in giro per il mondo. No, ma è curioso. Non questa mi stupisce, esistono le crociere per la terza età, esistono... Vabbè, adesso che c'entra la crociera della terza età? No, un'altra c'entra, cosa. Perché voglio sono dire... Sono crociere, come? Soprattutto dagli Stati Uniti arrivano queste crociere. Sì, no, lo sai chi... Me l'ha, l'ha detto l'altro giorno Fabio Canino, sai chi è Fabio Canino, no? Sì, come no, Fabio Canino ha fatto dei programmi televisivi straordinari. Che ha detto che Venezia, a causa delle posizioni un po' contro i gay del sindaco Brugnaro, avrebbe perso un sacco di soldi, circa 4 milioni di euro, perché alcune crociere organizzate... Perché non è città gay friendly Venezia, questo. Sì, anche se poi un sacco di omosessuali si vanno a sposare facendo finta, diciamo, di sposarsi, no? Però moltissime crociere hanno cancellato Venezia come tappa dopo alcune affermazioni fatte da Brugnaro. Pare che insomma lui dice 4 milioni di euro perché questi qua portano un indotto, ma può essere vera sta cosa, Vladimir? Beh sì, quella che si chiama la pink economy, l'economia rosa, nel senso che... Ma ci sono queste crociere? Tu le hai mai fatte? Sì, no, io non ci sono mai stato in una crociera, ma si organizzano, generalmente sono crociere proprio con tutti uomini gay, solo uomini gay, con appunto... Ma tu non ci andresti mai, che ce vai a fare tu? Ma io ho fatto gay. Una sola volta una crociera, a me le crociere non mi piacciono tanto, devo dirti la verità. Le frociere, non le crociere, le frociere si possono... Quindi diciamo, però insomma esistono ed effettivamente... Ma c'è questo boicottaggio? Non c'è questo boicottaggio con Venezia, dai su, no? Non beh, c'è un po', perché comunque questo, quello che succede a Venezia comunque... Si viene a sapere, per quello che penso io, a parte che si dovrebbe parlare pure degli effetti. Cioè non è che tu non vai di queste a Venezia grandi perché... navi da crociera a Venezia in generale. Non è che tu non ci vai a Venezia perché c'è Brugnaro. No, dai. Allora io sono fatta così, io sono una che pensa che il sindaco di quella città non è gay friendly, però magari io se faccio un boicottaggio vado anche a danneggiare quel proprietario gay di quel ristorante che io sono un po' non sono così favorevole a queste campagne di boicottaggio, lo dico sinceramente. Ma come lo consideri il sindaco di Venezia? Un arretrato, un deficiente? Come lo consideri? Cioè uno... Ma è uno che sinceramente è un po' è anche un po' stupido, posso dire, perché tu pensa con anche diciamo così la scenografia di Venezia, cioè dovrebbe diventare la città dei gay, potrebbero andare a sposarsi. Ricorda che c'è un business adesso con queste unioni civili, con queste cose, c'è un business a porno che comunque è pazzesco, come no, perché certo. Comunque saloni, la musica, catering, abbigliamento, gioiellerie. Dice fa perdere un sacco comunque, di soldi alla sua città. Dice. Esatto, allora, per cui dico, persino te che puoi essere un po' omofobo, che te stanno sul cacchio i gay, eccetera, eccetera, ma sii un po' intelligente, fai una cosa anche per la tua città e dice vabbè, io sono contrario alla cosa gay, però no, non voglio che tutta la città debba avere stima. Dovrebbe sposare lui una coppia gay e cambiare opinione, ma non lo farebbe mai. No, senti, ma tu ti posso chiedere una cosa privata? Ma tu quando vai al gabinetto a fare la cacca, come ti come, no, ma come ti siedi? Voglio fare una grande è una grande inchiesta della Zanzara, perché tu lo sai che si è una grande inchiesta, si è scoperto che in realtà andare in bagno come facciamo tutti noi quando andiamo a cagare, si è scoperto dove? Si è scoperto grandi specialisti eccetera, grandi studiosi, no, ma veramente è così, hanno scoperto che mettersi a 90 gradi, cioè mettersi sostanzialmente in una posizione come andiamo seduti eccetera, fa male. Cioè, tu però vai così come tutti noi, immagino, no? Sì, si dice che addirittura la posizione che si assume al bagno alla turca sia più favorevole sinceramente arretto, diciamo, arretto. Una cosa di interesse pubblico, ovviamente, io seduta sia per la pipì che per la popò mi sono sempre trovato molto bene e ho comunque ho anche la pipì da seduta, fai da seduta, sì, certo in piedi mai, cioè, no tesoro, no, cioè non fai mai la pipì in piedi, perché no tesoro, seduta da sempre no, ma no. Quello guarda va insegnato anche ai bambini maschi, ad esempio, è una questione di civiltà, cioè se vuoi entrare nello specifico spesso in che bagno vai, scusa, è una vecchia questione che però ti voglio riproporre, che mi è venuta in mente, quando tu vai in un bagno pubblico ancora no? In cui c'è la scelta, dove vai? Ma quelle dalle donne, ovviamente, anzi donne. Guarda, tutta la mia solidarietà pure a Sgarbi, che ho sentito da voi, c'è la discriminazione per genere, la discriminazione per classe, ma insomma non ce la fanno fare in santa pace, guarda, cioè tu vai nel bagno delle donne, ma tu immagini io che entro, anche se tecnicamente fai la pipì come un uomo, cioè non è che io faccio seduta ho capito, però come un uomo la fai, cioè c'è il pisello, io entro nel bagno delle donne, perché se entrassi nel bagno degli uomini sarebbe visto dagli uomini come un gesto di provocazione, io passo molto più inosservata nel bagno delle donne che nel bagno degli uomini, certo. Vabbè, ma ho capito. È una cosa, guarda, pratica, molto pratica, senza neanche troppe ideologie, è proprio una questione breve. Io se vado in un bagno delle donne passo inosservata, a meno che non ci sia la signora che mi fa signora con tutti i complimenti, l'ho visto in televisione eccetera, ma se vado nel bagno degli uomini con quelli che pisciano sul urinatoio lì viene in sé questa che c'è sta fa qua, è venuta per provarci, l'atteggiamento è quello, tu dici, cioè se vai in un bagno dei maschi ti prendono per battona praticamente, ti riconoscono subito, lo sai che, cioè, lo sanno che non è che ma sì là. Ma guarda, io una volta feci un esperimento con la trasmissione Le Iene, perché era successa la cosa in me lo ricordo, Carolina, in cui andavo proprio nel bagno degli uomini, ma loro stessi mi dicevano tu che cazzo ci fai qua, quindi questa è la dimostrazione, cioè, che la ti riconoscevano, comune, ti riconoscevano, ti dicevano la gente comune che ha un po' un minimo del buonsenso rispetto ai politici che spesso ti classificano come femmina per uscire sui giornali semplicemente, la capiscono vabbè, ma per esempio qualcuno sostiene, dunque tu in realtà non quella cosa dei 35 gradi quando vai a cagare non la applichi sostanzialmente, non la vuoi applicare, dici io continuo là anche se poi può creare dei problemi, perché molti dicono che crea un problema proprio alla un problema proprio fisico, terribile. A lungo andare è cioè, un dramma ragazzi, no, bisogna essere a 35 gradi e questa è la realtà, con un piccolo sedile che si può comprare, allora diciamo pure che la carta igienica è poco igienica a sto punto, che sono molto più igienici nei paesi arabi, è meglio le mani che usano l'acqua, e allora però noi abbiamo pure delle abitudini, mo ho capito, ci sconvolgono tutti gli stili di vita, se adesso dobbiamo dire pure agli italiani che non devono più sedere ma devono tenersi un po' in quello equilibrio, i medici dicono quello. Andassero a cagare pure loro, senti, dai. No, ma se infatti vanno a cagare a 35 gradi, senti, ma le Olimpiadi la Raggi ha fatto bene o male, dai, che tu abiti a Roma, questo è un tema già, no, più attuale, a parte che la Raggi, cioè i paparazzi sotto casa, va tardi agli appuntamenti, mi pare più Valeria Marini che la Raggi, però a parte questo la Raggi ha fatto detto aspettare 35 minuti, ma Valeria Marini, un fotografo l'ha mai fatto. Però allora, strepitoso, farà aspettare 35 minuti Malagò e non ma riceverlo. Ma non è perché è Malagò, è roba da maleducati. È stupendo. Anche fosse un cittadino qualunque, è roba da maleducati. Poi hai un appuntamento, sei un consolatevi, sindaco. Ma... Consolatevi, perché nel 2019 almeno ci saranno le Olimpiadi Gay. Dove? Poi. A Roma? A Roma, gli Eurogames. Quindi non ci cioè, almeno le Olimpiadi Froce le facciamo. Ma non ho capito se sei d'accordo o no, non ho capito. No, non sono d'accordo. Ci avresti fatto le Olimpiadi. Non si può buttare il bambino con l'acqua sporca, nel senso che tu per combattere la possibile corruzione non brava. Puoi dire di no ai grandi progetti. Bravissimo. Perché bravissimo. È troppo facile brava. Così. Invece tu li devi fare. Signora Luxuria, devi veramente bravo. In questi grandi progetti devi combattere chi non ci vuole fare la cresta. Ma che sport ci sono le Olimpiadi Gay, scusami? Tutti, quelli normali, cioè, no, quelli mica, normali. C'è lancio, mica c'è il lancio dalla borsetta, no? Che ne so, boh, cioè, magari, magari vi siete inventati qualcosa, che ne so, qualcosa di sessuale, che no? No, quelle le si fanno in privato, non ma scusa, però, in uno stadio. Vabbè, ma questa intanto cosa è un po'... sull'asta si fa a letto. tutto. Invece il salto con l'asta a letto, sì. Si fa, si bella fa. Questa, il salto con l'asta a letto, sì. Ciao, ciao Vlad, ciao, ciao. Ciao, ciao Vlad, ciao, ciao. Oh, dove andiamo? Giovanni, Reggio Calabria, vai, forza, Giovanni. Buonasera, buonasera amico Giuseppe, buonasera. Dimmi, questo Giovanni, promette dimmi. Male questa telefonata, dimmi. Lo dico io. Dimmi. Ho già visto che promette. Sta marcando male questo. Dimmi Giovanni. Lo dimmi. Sento già dal tono iniziale della voce che promette male qua. Promette male. Palenzetto, Giovanni da Reggio Calabria promette male sin dalle prime battute, sì, direbbe qualcuno. Palenzetto, ecco, sentiamolo. Di greco e di latino. Stai attento, voglio un espeggiativo. Palenzetto, voglio parlare del Duce e delle creature del Duce. Vedi. Opera nazionale maternità e infanzia. No, ma dai, ragazzi, che vuol però... dire Palenzetto? Che dava alle ragazze che avevano figli bisognosi tutta l'assistenza. Vabbè, adesso stai facendo l'elogio da Duce. Perché tutti i matti iniziano dicendo amico Giuseppe. Mi spieghi perché così? Sei curioso, però. Ma non lo so, perché me lo segnala un altro grande radioascoltatore che è Carlo. Non dirò il cognome, no, però, perché magari scusami, non vuole. Giovanni perché che è dicono fascista? Amico Giuseppe. Sei fascista, Giovanni? Ma tutti i matti. Sì, sono fascista. Orgogliosamente fascista. Ecco, benissimo. Io penso che uno oggi in Italia si possa, nella sua follia, perché Giovanni è un po' folle, naturalmente. Ecco, folle. Io sono una persona normale. Tanto normale lei, caro. Uno che si proclama oggi fascista, tanto normale non è. Appunto. Se uno poi vuole dire che è normale, amico mio, no. Se vuoi dire che sei normale, no. Adesso io te lo faccio dire che sei fascista, che Mussolini è un dio, ha fatto delle grandi cose. Te lo lascio dire, ma che tu mi dica che è normale, no. Non è normale, non è normale. Meno male. Ma no, la previdenza sociale. Io ho voluto la previdenza sociale. Sono entrato social, a 30 anni, dovevo andare a 56 anni, 6 mesi e un giorno. Non come ora. Tutto si guazzabuglie qua da Fornero. Ho capito, no, la Fornero, adesso la Fornero questo per carità. Qua non capisce e ignora il fatto che il fascismo è un reato. Anni, 6 mesi e un giorno. Ma lo sai qualche slogan fascista, lo conosci o no? A chi? Qualche slogan fascista, qualche che canzone, pazienza. La conosci o no? Che pazienza. Te la ricordi? Una voglia. A voglia. E come fanno, per esempio? Dimmi un po'. Duce a noi. Duce sei sempre nel nostro cuore. Non ti tradiremo mai. E poi voglio dire un'altra cosa. Ma questo cosa che importante. C'entra? Questo mica era uno slogan questo qua. Adesso cioè, faccio sentire io una cosetta. Qualche canzone, la sai o no? Qualche canzone del ventennio? No, guarda, non mi fare fare il pagliaccio, per favore. No, ma cantiamola insieme. Invece... No, non mi fare fare il invece... pagliaccio, invece per prima che eri un professore universitario. Mamma mia. Vedo tutto, per favore. Per favore, non scherziamo su Duce, non scherziamo. Io e la mia famiglia. Sentire io la canzoncina adesso. Di Romano Mussolini. Tu sei amico di Romano Mussolini. E vabbè, sei amico di Romano Mussolini. Come viveva? Come viveva Romano Mussolini? Mussolini. Ma perché era bravissima persona? Forte. Suonava il pianoforte. Ma scusa. Poi faceva quadri e li vendeva. Era amico mio e della mia famiglia. E va bene, Giovanni, ma perché? Ma che me ne frega a me se tu sei amico di Romano Mussolini? Ascolta, me ne frega a me. E beh, te ne frega a te, a me non me ne frega però. Presidente emerito. Vai a prendere i figli di quello che è morto l'altro giorno. Quanti miliardi hanno? A lui con la L maiuscola non è caduto lui eppure un biglietto del tram, come diceva l'amico mio Walter Chiari pure amico suo, era Walter Chiari un'altra epoca, non può confermare purtroppo, sono intellettuale di destra. Amico, vabbè, Giovanni, ti saluto, ciao ti saluto, amico di Walter Chiari, ciao. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Allora, Mauro Mantova, vai Maurone, vai. Mauro. Ecco, ma c'hai ancora virus, Carafaggio? Sì, aspetta un attimo che metti bene. C'hai ancora virus, Carafaggio? Metti bene la linea, metti bene il collegamento, dai, metti bene il telefono, Mauro. Ce l'hai. Cazzo, è quello nuovo. Vabbè. Ascolta. Ti sei comprato il cellulare nuovo? Ti sei comprato? Ma io ogni mese o due ne prendo uno. E come mai cambi questi cellulari? Non ho capito. Perché per fare le due porcherie con gli scambisti, per fare le due cose là. Ma quelli sono cazzi miei. A parte il fatto che se si farà la cena con i fans, oggi ho agganciato un trans ed è molto bello, però io hai agganciato un trans. No, ma dove l'hai agganciato? In quale chat? Belvamen, sai Parenzo come viene soprannominato Belvamen? Cioè, ma mi fa schifo, sì, non gli parlo neanche, mi fa schifo. E Trucidator. Trucidator, allora, Trucidator. Se, vai, se Mauro, che volevi dire oggi? Andiamo al sodo, dai. Allora, se faremo la cena... Ma che vuol dire? Non lascia perdere la cena. Che vuol dire che hai agganciato un trans? Non ho capito. Io adesso, se vuoi venire, ti porto là, ti faccio conoscere. Cruciale perché... Ma adesso non mi portare un trans agganciato in una chat, amico mio. Cioè, non mi puoi portare a una cena... Perché gli ho detto che spesso trattiamo questi argomenti. Ah, hai vabbè, capito? Può essere simpatico da questo punto di vista. No, vabbè, vedremo. Una persona intelligente. L'hai capito con la chat che è intelligente. No, io non l'ho agganciato per sesso. Abbiamo parlato di quello che... Ma vai ogni tanto con un trans. Io sono etero. Vabbè, ma gli etero vanno con i trans, che c'entra? Mica vanno i gay no, con i trans. No. Come no? No. E non c'è male, vabbè. Mi piace la topa. E vabbè, d'accordo, ti piace la topa. Che volevi dire oltre al fatto che ti piace la topa? Allora, ma ieri Parenzo fa. Ma io una persona normale. Come? Sei una persona normale, Parenzo. Perché? Tutto. Ma così meno che una persona normale. Beh, adesso vuol dire, tra i due sarà più normale lui. Sarà più normale lui, scusami. Uno che lega l'evidenza, che dice delle casate e che dà dei giudizi in base a quella persona. Senti, ma però scusa, fatti fare una domanda, Mauro. Adesso al di là di questo, tu che ne pensi della vicenda Ciampi Salvini? Cioè, Salvini ha detto che quello è un traditore, che Napolitano è un traditore, eccetera, eccetera. Mi sembra un po' abbia preso un po' esempio da te, Salvini. No. Ma che Salvini dice quello che dico io, perché la realtà è questa. Sì. Distrutto. Cioè, la realtà qual è? Scusa, spiegami. Ma ascolta, ma voi dove distrutto. Vivete? Ma dove viviamo noi? Non lo so, qua in Italia. Il che c'è stato nel 2011 non è mica stato unito da Napolitano, molti da Benedetti e Prodi. Beh, ma scusa, adesso complotto ordito. Lo sanno chi sassi? Lo sanno anche i sassi? Cosa sanno anche i sassi? Ascolta, cosa sanno? Se non si sono trovati per buttare giù lo schizzo di quel complotto, ma... si sono trovati qui a Mantova al Palabam. Oddio, questa storia. Con la mantovana, botte di paschi di cera. Ma non è così! Ma non è così! Se tu venivi qua a gennaio 2010, gennaio-febbraio, arrivavano le flotte di macchine blu con la targhetta in ottone dietro, ministro della giustizia. Dunque, no, per te che cosa bisogna fare con Napolitano? Cioè... Napolitano l'avrebbe processato e fucilato. Fucilato! Dammi lettera, chiudilo perché è completamente fuori controllo. Dammi lettera. Per alto tradimento. Perché se tu... Ma dai, fucilato, amico mio, fucilato Napolitano, fucilato. Forse tu non ti ricordi, ma... Le intercettazioni di Mancino e Napolitano quando sono uscite. Vabbè, ma che c'entra questo adesso con la fucilazione? Sono state bruciate. Sai perché? Per non essere processato il bastardo. Le ha fatte bruciare il bastardo. Sì, ma il bastardo, adesso non esageriamo, il bastardo, quello è. Ma sì, perché ascolta, tu sei un presidente di dare buone. Fucilato e processato. Tu hai processato e fucilato. L'intercettazione ti fai processare. Vabbè. E poi il giudicato. Senti, no, io non ho capito, però tu che dici una cosa del genere, ti professi, perché Parenzo quello si tratta, si professa hitleriano, il signor Belvamen. Ma come è un matto, com'è possibile? Ma è un povero, ma è un malato di mente, allora, dai, ma non si può neanche. Se quello dicevano film Fantozzi, che le pilini con Fantozzi stavano pescando, a un certo punto dice questa Fantozzi, è la cosa che conosce ma, meglio. Scusi, cioè, signor Filini, ma questi secondo me non sono pesci. Sono ratti. Allora fa Filini con Fantozzi. Senta Fantozzi, può piacere o non piacere. Sì. C'è il pesce cane, il pesce gatto e il pesce ratto. E allora? Può piacere o non piacere. Allora? A me la grigliata di pesce ratto piace da morire. Allora che c'entra? E allora, posso essere stimatore di Hitler? O no? Non puoi essere stimatore. O vuoi imporre anche tu? O quello scarafaggio che è lì? Vuoi imporre a me i miei gusti? I miei gusti sono miei. Ma ho capito, ma Hitler! Hitler, amico mio, Hitler! Ha capito il problema mondiale. E quali sono? Gli ebrei? Secondo te... Ma perché sei fissato? Perché sei fissato? Ascolta, allora ci faccio una domanda. A chi appartiene? Petrolifere, tabacco, assicurazioni, multinazionali. Tutto gli ebrei, Gli ebrei. Allora, non ci sono. Ma dai, su, Belvamen, dai, su, Belvamen. Allora, la realtà è questa. Vabbè, ma ho capito. È un'altra cosa, ma la realtà è questa. La realtà è questa, vabbè. Parenzo, chiosa tu, chiosa tu, chiosa tu, chiosa tu. Ma chiudi e mandala a quel paese, poveretto. Ma è un pa- no, ma comunque, non c'è niente da riprendere. Prima ma di morire, prima di morire. Che avverrà presto. La bella mano di legnate quei coglioni via. Ma perché lo devi picchiare? Ma è una minaccia. Ma magari. Ma magari lo vedessi in faccia, guarda, magari lo vedessi in faccia. Ma come ma guarda, ma quelli si rivoltano nella tomba, quelli lì, poveretti. Si rivoltano nella tomba quelli. Ma perché lo vuoi picchiare? Perché lo vuoi picchiare? Ma perché lo vedessi in faccia, sto idiota? Sto idiota, lo vedessi in faccia, maledetto lui. Ma lo vedessi in faccia. Ma lo vedessi in faccia, sto maledetto. Vabbè. Ma lo vedessi in faccia. Ciao Mauro, ciao Mauro, ciao. Ma lo vedessi in faccia, maledetto. Allora ragazzi, Pellegrin, ritorniamo altro sulla buono. Vicenda Pellegrin, va? Altro buono. E vogliamo ricordare ancora una volta che cosa ha detto Pellegrin, ricordiamolo velocemente sulla mafia, ricordiamolo, dai, Pellegrin a Radio Padania. Preferirei davvero essere governato dalla mafia piuttosto che dallo Stato italiano, e questa è la mia posizione, preferirei la mafia, la provincia, la città anche, nella quale vi è il minor numero di furti in appartamenti. Preferirei essere governato dalla mafia piuttosto che dallo Stato. Mi sembra molto chiaro, no? Non è discutibile questa cosa qua, quello che ha detto. Gli vogliamo fare una telefonatina? Proviamo, proviamo. Dai, proviamo. Tanto non risponderà, figurati. Ma no, risponde. È un coniglio, c'ho un cazzo da fare a questo. È un coniglio, figurati se riporta. Dai. Pellegrin? Chi sono io? Io lo sai che ti difendo, no? Che succede? No, lo sai che ti difendo, sì, per questa cosa qua. Chi è il miserabile questo qui? Ma tu stai parlando, scusa, non so... Pellegrin, hai detto che tu preferisci la mafia allo Stato italiano, è così? Non ho detto esattamente così. Sì, hai detto così. Detto no, adesso però non ti tirare questo. Indietro. Cosa fai, Forlani, adesso? Non l'ho detto esattamente, Forlani! Detto. Scusa, Cristiani. Dimmi, Pellegrin. Il bambino scemo, poi... metterlo in disparte. Di cosa vabbè, parla? Iniziamo a dire una cosa. Perché dici che non hai detto quelle cose là? Ho detto che tu non puoi decontestualizzare. Questo veramente sei Forlani sul serio. Allora è chiaro, una persona mediamente intelligente. Aspetta. Sì, aspettiamo. Capisce che è una critica da parte mia nei confronti dello Stato italiano, per come lo Stato italiano da sempre, da come lo conosco io, si comporta nei confronti del cittadino. Sì, ho capito, ma tu hai fatto, ha detto preferisco la mafia, ma non sarà un'apologia della mafia, però hai detto preferisco la mafia allo Stato italiano. Ascolta, mille volte. Vai a leggerti, sì, ascolta, se vai a leggere sul Fatto Quotidiano che l'hanno ricostruita bene, io ho detto che preferirei essere governato dalla Confederazione Elvetica. Sì, vabbè, lascia perdere la Svizzera. Lascia perdere, che cazzo dici? Dai, sì, amico mio, però ascolta, hai detto preferisco la mafia, l'hai detto o non l'hai detto preferisco la mafia? Ascolta, se c'è una cosa che detesto, essere trattato da coglione. Tu non mi metti in bocca quello che io non intendo. Preferirei essere governato dalla Confederazione Elvetica. Ma questa è una cosa che hai detto, poi ne hai detta anche un'altra. No, ma sono collegate, porco miseria, sono collegate, non puoi scollegarle, che idiota. No, ma che idiota, hai detto preferisco la mafia. Ma hai detto che preferisco la mafia allo Stato italiano. Se vuoi continuare a parlare con me, per conciare il bambino scemo, lo piacci fuori. No, ma io sentire il bambino scemo. Scusa, io il bambino scemo non lo voglio sentire. Pellegrin, il bambino scemo non lo voglio sentire. No, scusa, Pellegrin, scusami un attimo. Manda via il bambino scemo. Ma non è che poi non è con te. Aspetta, Pellegrin, io non parlo col bambino scemo. Però non puoi sentendo il bambino scemo. Un attimo, fermatevi. È un mio diritto. Fermatevi un attimo. Allora, Cruzzani, però scusa, tu hai il diritto di dire. Cruzzani, è un mio diritto non sentire il bambino scemo? Io ti dico che è un mio diritto. Aspetta un attimo. Hai tutto il diritto di dirgli il bambino scemo. Sono io che decido. Ma se sento il bambino scemo, io ne accetto. Vabbè, allora stai zitto un attimo, Davide, stai zitto ma un attimo. Ma salame di chi parla? Stai zitto un attimo. Lo sento, mi dispiace, guarda. 3, 2, 1, tra un po' di attacco. Aspetta, allora dimmelo, hai detto o no quella cosa sulla mafia? Ma che te frega? Ma come vuol dire che ti frega? È quella la contestazione. Ma sei un giudice? Ma che c'entra il giudice? Dai, non fare il paraculo con me, Pellegrin. Hai detto quella cosa sulla mafia, sì o no? L'hai detta. Ma sei un giudice? Guarda che per me puoi dire tutto quello che vuoi. Basta che non lo fai con i soldi miei. Puoi dire tutto quello che vuoi. Basta che non lo fai con i soldi miei, hai capito? E tu lo fai i soldi con i soldi di Confindustria, che sono soldi miei, perché no, non sono soldi tuoi, sono soldi privati. Sono cazzo dici? Sono Confindustria, ha fondi per 25 miliardi da fondi pubblici, sono i soldi perduti. Ma sono, ma che cazzo dici? Sono quelli dell'editoria, non dire cazzate, non dire cazzate. Sono quelli dell'editoria. Ma che 25 miliardi? Ma quando vai? 25 miliardi? Che sei rimasta la lira? Capisco che ti piace la lira. No, non sto parlando dei fondi dell'editoria. Allora, torniamo alla frase, torniamo e dopo ci andiamo. Torniamo sulla mafia. Guarda, noi non prendiamo un euro di soldi pubblici. Non prendiamo un euro tranne. Ma miliardi di che? Ma quali miliardi? Al massimo milioni? Quali miliardi? Al massimo milioni? Su, dai. Miliardi non sono quelli del fondo dell'editoria, informati, ignorante. Sì. Senti, Pellegrini. Studia, cazzo, no. Studia. Senti, Pellegrini, scusa, i soldi dell'editoria li prendono. Ti prendeva, cazzo, il culo perché non i soldi dell'editoria li prendono tutti. Li prendono tutti i soldi dell'editoria. Aspetta, affido di parlare ai Naudili. Aspetta, Luigi Naudili, affido di parlare. Allora, lascia perdere i soldi pubblici. Allora, dimmi una cosa, la parola mafia. Il mafioso Varin. David, un attimo solo. Il mafioso Varin, che fa l'elogio della mafia. Stai zitto un attimo. Stai zitto un attimo. Fammi spiegare questa cosa. Allora, Pellegrini. Allora, ascolta. Dimmi. Ascolta. Parla della mafia. Prendi 200.000, 300.000. Sono cazzi miei quanto prendo. Sono quando non prendo un euro di soldi pubblici, capito? Me li danno i privati i soldi. Me li danno i privati i soldi. Me li danno i privati i soldi. Me li danno i privati. Non dire puttanate, Pellegrini. Li danno i privati. I privati che li prendono, che li portano via al pubblico. Ma non dire minchiate, non dire cazzate. Non dire cazzate, dai, su. Sono i soldi che prendono tutti gli editori italiani e per me andrebbero tolti, tra l'altro, capito? La penso come te su questo, andrebbero tolti. Ascolta. Solo che a te ti paga solo il pubblico, perché altrimenti nessuno ti darebbe una lira, chiaro? Ascolta. Beh, ignorante. Sto parlando dei fondi al Confindustria. Ma quale fondi? L'ufficio stampa di Confindustria? Dopo la sua sortita, aspetta un attimo. Questo Varin, tal Varin, dopo la sua sortita sulla mafia, Pellegrini. Stai zitto un attimo. Stai zitto, Pellegrini. Ragazzi, lo salame di Pellegrini, dopo la sua sortita sulla mafia, può fare il capo ufficio stampa di Cosa Nostra, evidentemente. I 200-300 mila euro che tu prendi, ripeto, te li dà Confindustria, il padrone, ti tira dalle tasche 25 miliardi. Ma non dire cazzate. Sto parlando dei 40 milioni. Ma sto coniglio, perché non parla della mafia, capito? Non parla della mafia. Sto coniglio qua, perché non ammette quello che ha detto? Ah, io sono la mafia. Sto coniglio non ammette. Hai detto che preferisci la mafia? Preferisci la mafia? Preferisci la mafia allo Stato italiano? È il mio diritto parlare. Senza sentire quel macaco del bambino. Ma se tu non vai al punto, quello interviene. No, se tu non vai, aspetta, a parte che non è il tuo diritto. Diritto, non è tuo diritto. Comunque, lasciamo come perdere. Non è mio diritto. Non è tuo diritto, ma tu non vai al punto. Calma. Perché non se dici non quella frase? Ascolta, no, ma questo coniglio qua, ma sto coniglio, ma al di là degli insulti, ma sto coniglio qua. Davide, un attimo solo, perché non vuole. Sì, ma sì, ci sta. Ascolta, ho capito. Vai sulla mafia. L'hai detta quella frase o no? L'hai detta quella frase o no? Siccome l'hai detta, siccome l'hai detta, e invece ti stai arrampicando. Ho parlato della Svizzera, ho parlato di questo. L'hai detto o no che preferisci la mafia? Ah, vabbè, adesso attacca questo stronzo. Mamma mia, che testa di cazzo, ragazzi. Che testa di cazzo. Bella quella cosa sul capo del capo ufficio stampa. Avendo fatto l'elogio della mi pare di aver capito delle sue parole, l'elogio della mafia, seppur paradossale, si può candidare a fare il capo ufficio stampa, non so, il direttore della comunicazione. Allora, caro, adesso manco ho avuto il tempo di dirglielo, caro Pellegrini, i miliardi cui facevano riferimenti sono i miliardi quelli per le imprese, non c'entra nulla, niente. Non è che hanno dato 25, mi danno 25 miliardi a Confindustria. Ma ancora discuti con quello cretino, imbecille. Ma perché discuti? Io tratto, difendo il suo diritto di poter dire quello che vuole. Questo è il punto. Questo sbaglia, perché qui in questo caso dice per me non devono, non devono spegnere le frequenze, non devono fare nulla, può dire quello che vuole. Ma fa l'elogio della mafia. Ma va benissimo, basta che non lo faccia con i miei soldi. E gli immigrati, siccome fino all'altro giorno, finalmente la pacchia è finita, fino all'altro giorno hanno preso i soldi pubblici per dire che la mafia è meglio dello Stato, allora vaffanculo, ci ridiano i soldi e poi possono dire quello che vogliono. Ormai non ho più relazioni di sorta, solo solitudine e zanzara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Caffè Society, il nuovo film di Woody Allen dal 29 settembre al cinema. La Zanzara. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei! 800240024 oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393-7171-701. Beh, siamo veramente al top, siamo veramente al top! Da quando ascolto la Zanzara vado al cesso col goniometro. Cari miei, siamo al top. Luciani, ma perché le donne non intervengono in materia? Allora, 2 anni fa io ho scoperto questa cosa a casa di una mia amica, vado a fare la cacca, lo rendo pubblico, torno e mi fa, ma ci hai messo pochissimo, ma te le sei lavate le mani. E perché? Quindi da quel giorno al lavoro, ogni volta che vado al bagno, apro il rubinetto e faccio finta di lavarmi le mani perché non è necessario. Oh, ieri sono rimasto parcheggiato 10 minuti in più per farmi insegnare da Cruciani come cagare. Però oggi mi sono svuotato che era una meraviglia. Senti questo su Ciampi, senti questo su Ciampi. Ma Ciampi sta bene dov'è? Ma parliamo piuttosto delle pensioni e vitalizie che prendeva quell'uomo e prenderanno gli eredi, altro che salvatore della patria. Sta bene dov'è? Ciampi sta bene dov'è? È proprio la galleria degli orrori. Però questo qua, bisognerebbe chiamarlo questo tizio qua. Bisognerebbe chiamarlo sempre. Questa gente se qua risponde, sono tutti, sono dei conigli, perché lasciano il messaggio in segreteria, poi figurati, scappano come conigli proprio. Com'era? Scappano come conigli, che era? Scappano, capanna lo diceva sempre. Scappavano come conigli. Allora, lo ripetiamo, nel comune di Nicotera, di una delle, non so che cos'è, Vibo Valentia, la Calabria Saudita, è atterrato un elicottero al centro della città, che è stato chiuso senza che il sindaco sapesse nulla. Il sindaco si è scoperto che, al contrario di quello che andava dicendo, è andato anche al ricevimento. Ecco, questo è incredibile. Cioè al pranzo del... Questa è la cosa definitiva, dai. Di quel personaggio che è atterrato con l'elicottero. Il personaggetto. Pare lontanamente parente di una... parente alla lontana di una famiglia... di una famiglia chiacchierata. Ecco. La famiglia... com'è che si chiama la famiglia? La famiglia mi sembra Mancuso, la famiglia Mancuso. Sì, la famiglia Mancuso di Nicotera. Ora, il comune sta per essere sciolto per infiltrazione mafiosa. Bene, prima. Anche questa, ottimo. Seconda cosa, il sindaco ha detto, beh, ma figuriamoci se la famiglia Mancuso ha cose più importanti di cui occuparsi che non l'atterraggio di un elicottero. Questo è il sindaco, che sostanzialmente qui da noi l'altro giorno la Zanzara ha detto che praticamente... non conta un cazzo. Allora, io farei qualche telefonatina ai Mancuso, del paese, di Nicotera. Ecco, che ecco, giustamente, ma mettiamoci. Proviamo. Anche, inimichiamoci anche questo paesino. Bravo, mi sembra giusto. Chiamiamo Mancuso, no? Chiamiamo Mancuso. Certo, il famoso boss Francesco Mancuso, Cabu Bastuni, detto. No, si chiama Pantaleo, si chiama. No, si chiama pure Antonio Mancuso, detto anche zio Antoni. Ma tutta gente, detto? Ma te ne dico detto? Io, c'ho tutta qui la cosca davanti, l'Andrina di Mancuso, c'ho tutto l'albero genealogico. Andiamo con i Mancuso, dai, così, dai. Zio cazzo. Mario, poi c'è il signor Tabacco, poi tu c'è Pantaleone, c'è il signor Pantaleone Mancuso, che è detto l'ingegnere, ad esempio. Non da credo, capire perché. Non ti credo assicuro? Che abbia, non credo che abbia praticato, non lo so, il mestiere di può ingegnere. Anche essere Pantaleone. Però... Mancuso, detto vetrinetta. Gli alleati della cosca Mancuso sono i signori Piro Malli, altri. Beh, diciamo, sì, no? Sì, sì, anche il signor Piro Malli, i signori Pesce, sì. I signori Fiare, i signori Arena, i signori La Rosa. L'attività di questi signori Mancuso, ai quali tu vuoi telefonare, diciamolo in diretta, le attività sono traffico di armi, narcotraffico, sequestro di persona, omicidio, estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio di denaro, smaltimento rifiuti, truffa, gioco d'azzardo, racket, prostituzione, contrabbando, edilizia, appalto pubblico, contraffazione, infiltrazione pubblica, amministrazione e corruzione. E tu, con tutti i cazzi che noi abbiamo con questa maledetta trasmissione, vuoi telefonare al clan dei Mancuso? No, al clan. Ma vaffanculo! Hai Mancuso in calà del ma paese. Ma ho capito, ma ti rendi conto? L'attività, cos'è, due pagine per spiegare traffico d'armi, narcotraffico, sequestro di persone, omicidio, business, estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio di denaro, smaltimento rifiuti, truffa, gioco d'azzardo, contrabbando, edilizia, appalto pubblico, racket, infiltrazione della pubblica amministrazione e corruzione. C'è soltanto un pentito di tutti questi, solo uno è pentito. Mancuso, cerchiamo, va, chiamiamo a caso, dai. Sì, buonasera. Beh, è stato un grande matrimonio questo, no? Molto. Ma lei chi è, scusi? No, è istituto. No, io voglio sapere lei chi è. È stato un grande matrimonio. Ma cosa vuole? Ma quale matrimonio, scusi? Ma non io ha... non ho sposato nessuna figlia. Ma non ha visto il matrimonio che c'è ma stato? Ma non mi interessa, io abito fuori paese. Ma è non stupendo. Abito fuori paese. Ma è stato un matrimonio meraviglioso con l'elicottero che è atterrato, signora. Questa mi sa che si incazza solo ad essere accostata al matrimonio. Sì, aspetta, aspetta, riproviamo, dai, rifatemi il numero, dai. Senta, anche se lei chiamo con il privato, guarda che metto la caserma in funzione e la trovo. Allora, signora, io voglio dire. Ma scusi, allora voglio dire una cosa. È stato un matrimonio. Ma lei è venuta a creare, visto che mi sono sposata io o qualcuno della allora, mia famiglia. Ma lei si chiama Mancuso, no? Perché cosa ha no, che fare con Mancuso? Conosce il signor Gallone. No, per carità. Ma non ha niente a che vedere. In un paese, bene o male, si conosce tutto. Ma conosce no, non conosco nessuno come in privato. Io conosco sì. Come famiglia, si sa che tutti ci conosciamo. Lei al suo paese ma che cos'è, un bastardo? Ma lei è un bastardo, un figlio di NN, non lo conosce no, nessuno. No, non dica e allora così. Che cosa? Guarda che lo faccio denunciare. Ma lei conosce il boss Mancuso o no, signor Pantaleo? Ma quale boss Mancuso? Perché non ci sono boss lì. Ma forse perché non fanno la dieta. No, ho capito. Lei conosce l'andrangheta o no? Sentite, la conosce l'andrangheta o no? La solo una cosa di andare a lavorare. Calma, di signora, a lavorare, scusi. Veramente, non fare sulle persone. Lei la signora... conosce? Signora. Ma veramente noi stiamo lavorando, signora. Quindi c'è un clima cazzo. Troppo teso lì, sì, mi pare. Sì, un no. Clima teso in quella cittadina lì, guarda. C'è un clima teso. Tu andrai lì, no? Diciamolo che andrai in visita lì. No, no, ci vai. Ci vai lì in visita, vai proviamo lì. Un altro, dai, proviamo un altro Mancuso, no, questa ma qua io no. Io eviterei. Tu io eviterei, che... guarda. No, no, magari ci va bene, magari ci va bene, dai. Pronto? Pronto? Pronto chi è? Pronto? Calma. Sì. Casa Mancuso? Sì. Allora signora, un attimo, stiamo tutti calmi signora. Lei mi deve dire l'andrangheta fa schifo, me lo dica. La prego. Ma non fa culo, c'è l'andrangheta. No, mi dica l'andrangheta fa schifo. Il clima è molto teso. C'è però. Tensione, te lo dico io, c'è molta tensione. Te lo dico io che me ne intendo di queste cose, c'è tensione. Dici, è il caso di fermarsi con Nicotera. Ma se tu vai a vedere le facce di questi signori, metti clan Mancuso, no? Immagini, no, lascia stare le biografie, guardati solo le immagini. Beh, amico mio, francamente avrei meno paura ad andare la notte nel Bronx a piedi armato di Rolex d'oro al grido di negro negro vieni a trovarmi, francamente, o ad Harlem nel quartiere nero di New York, andrei più tranquillamente lì dicendo nero nero, ecco, questo mi farebbe meno paura, francamente, meno paura mi farebbe. Allora, dove andiamo? Leonardo Roma, vai, Leonardo. Ciao, buonasera. Dimmi. Parenzo, per la riofalgia cerebrale devi prendere il carbone. Piacere, Parenzo. A casa sua va tutto bene? Sì, no, lascia perdere casa mia. No, volevo capire, a casa sua va tutto a posto? No, Lorenzo, mi devi dire dove sta l'assurdità di un sindaco che dice no alle Olimpiadi. Ci abbiamo la contro, ma se lui è quello è aspettare, eccolo qui, uno dei fedelissimi, uno dell'esercito dei 5 Stelle. Mi fai parlare? Uno dei fedelissimi, uno dei fedelissimi. Eccolo qua, un fedelissimo. Da 60 milioni di euro nel 2005 e nel 2007 è arrivata a 240 milioni, sta ancora lì. Ma infatti siamo tutti qui ad aspettare. Ma infatti siamo tutti qui a vedere il buon governo dei 5 Stelle. Abbiamo il 50%. Il buco ce l'hai in testa te intanto. Ma siamo tutti un trasporto pubblico nel 2024. Siamo tutti qui ad aspettare le buone cose, lo dico senza ironia, che farà il governo della Raggi. Amico mio. Hai capito? Siamo tutti qui. Veniamo in pace. Fatto Ignazio Marino, ma nessuno lo mette in discussione, infatti. Ma chi sta parlando di Ignazio Marino adesso? Infatti siamo tutti qua. Infatti, se lei si calma, siamo tutti qui ad aspettare le buone opere che farà il sindaco Raggi. Sono qua, certo, io non è che critico. Sono scudato, qua, ma voi chi? Ma voi chi? Ma voi chi? Ma voi chi? Ma voi chi? Ma quale ma quali compagni di merende? Di che cosa sta parlando? Ascolta Leonardo da Roma. Leonardo da Roma, sentiamo Leonardo da Roma. Tu forse non lo sai, ma la metro B, la metro B a un certo punto va verso lo Ioni e serve Corso di S, quel mondo di sopra. Quel mondo di sopra dove ci stanno zone a Roma Sud che non sono servite proprio e appartengono al comune di Roma, non Roma provincia. Hai capito? Ma che c'entra? A me lo dici della metropolitana. Ma abbandonate e tu mi vuoi portare alle Olimpiadi. A me lo dici della linea della metropolitana. A me lo dici della metro B della metropolitana, cosa che prendo sempre. A me lo dici? Dimmi Leonardo, dimmi. Salame. Lui va a casa, no? E vada la moglie gli dice: no, salame mio. No, alle Hawaii non sono mai stato. Alle Hawaii non sono mai stato. Ma tu devi andare in vacanza a Rebibbia invece. Tu in vacanza devi andare a Rebibbia. Ma no, il quartiere, nel carcere però. Ma scusa, che c'entra adesso? Che c'entra? Perché lui vuole le Olimpiadi a Roma. E vabbè, io prendo sempre la metropolitana, la linea B. Perché forse tu non lo sai, ma la maggior parte delle società che gestiscono le imprese edili in questa città sono tutte rumene e le società stanno tutte in Romania. Vabbè, quindi, ho capito, adesso Leonardo, però adesso e quindi le strade chi le farà? E le strade chi le farà? Di Maio adesso. Scusa, allora, la ditta chi le fa? Che fa? Le strade che sono chi le fa? Che non sono chi le fa le strade ora? Del PD a fare le strade. Ma chi me ne frega del PD? Allora, le strade fermi tutti, a Roma, fermi tutti. Chi le asfalta? Chi mi le segnalano, fa? David, Di mi Maio, segnalano. Chi le fa? Grillo, mi segnalano, chi le fa le mi segnalano che accanto a te c'è una signora, giusto? Mi sì, dicono. C'è Emanuela Conte che ti voleva salutare. No, aspetta, aspetta, no, no, non mi deve salutare. Emanuela Conte. Ciao Giuseppe. Ciao Emanuela, ma le tue tette pesano ancora così tanto? Sono ancora così pesanti le tue tette? Magnifico, cioè, perché è una donna con due tette enormi. Cioè, scusami, se è un tuo amico. Cioè, puoi dire che è un cretino. Lo puoi no, dire ma nel senso, Giuseppe, sei un cretino. Alla vista, un dico. Un cretino. Alla vista, lo puoi dire perché. Giuseppe, amico, non ti scordare che sono calabrese, quindi ti scateno tutti contro. È una donna che ha tanti chili di tette. Una cosa meravigliosa. Ma no, ma si vede, non l'ho toccate, ma tanti chili di tette, una cosa è un tuo, pazzesca. Posso dirti, è un tuo amico. Cioè, ma io certo, non mio amico, ma non è una cosa negativa. Non ho detto te, una cosa. Fossi in te, due domande, una domanda me la farei, no due, una. Ma scusa, sono sua amica. Esatto. Ma ho detto una cosa positiva. Perché sei mio amico. Ma ho detto una cosa positiva. Manuela Conte, che lavora al Parlamento Europeo, è una che ha, credo, le tette più grandi che abbia mai visto in vita mia, ma originali, senza ritocchi, originali. Cioè, originali. Originals, ragazzi, non me la dovevi mettere là. Allora, se non volevi che dicessi una cosa del genere, non me la dovevi mettere là. Grande, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio, voglio ridere. Siamo ad alti livelli, qua. Radio 24. La passione si sente.